nell'edilizia in Italia si fa molta innovazione, le aziende investono molto, le aziende lo sanno, si sono impegnate e continuano ad impegnarsi in questa direzione. Un tema di assoluta centralità, un tema sul quale il nostro Paese si deve impegnare, deve mobilitare risorse e soprattutto deve procedere a quella semplificazione normativo-burocratica senza di cui non si riesce realmente a programmare gli interventi e a realizzarli.